Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz di modulazione di frequenza stereofonica, nonché il web. Un piccolo avviso, se mi state ascoltando, sui 103.1 naturalmente, se il segnale scompare per qualche minuto, non preoccupatevi, è tutto sotto controllo. Ci sono dei lavori in atto per migliorare la qualità della radio, per cui a singhiozzo ci saranno queste interruzioni, però potete ascoltarci tranquillamente sul web. Naturalmente, se andate sul sito radiocittafujiko.it e scaricate l'apposita app, potete ascoltarci con tutti i vostri mezzi cibernetici. Comunque, questa è Città Fujiko Live Club, ogni mercoledì, quasi, ma ogni mercoledì, poi vi spiegherò perché, 2 ore di musica dal vivo, di ogni genere e di ogni epoca, quasi tutti i mercoledì, perché dico subito che mercoledì prossimo non sarò in trasmissione, mi prendo un po' di ferie e quindi ci risentiremo fra 15 giorni, ma questo lo dirò in sede di saluti finali. Città Fujiko Live Club, come sempre, inizia con una novità, e oggi una novità veramente molto particolare, non particolare, diciamo una novità di cui sono molto contento, che è una novità italiana, una delle band più longeve del panorama musicale italiano, che ha pubblicato un album live che si chiama The Event, che è stato registrato ormai diversi anni fa, nel senso che è dell'anno scorso, del 27 agosto, quindi un anno fa, no, nemmeno un anno fa, ho sbagliato, scusatemi, al Festival Jazz di Lugano, Festival Jazz che in realtà si chiama Estival, senza la F, Piazza della Riforma a Lugano, appunto il 27 agosto dello scorso anno. Un evento che ha visto in scena l'unico membro originale, dire il vero, beh, stamattina non ne becco una, che è in realtà Franz Di Cioccio, perché è il membro più longevo con militanza, che è Patrick Zivas, il bassista, è arrivato a carriera inoltrata, diciamo, della band, poi se n'è andato, poi è ritornato, insomma una storia molto lunga, però una storia molto lunga che comincia addirittura negli anni 60 con una band che si chiamava I Quelli. Una band che aveva come cantante niente po' di meno che Teo Teocoli, che tutti voi conoscerete, e poi dopo si sono trasformati in premiata Forneria Marconi, questo penso che l'abbiate capito, e hanno avuto tanto tanto successo, sono state la band italiana di maggior successo all'estero, prima dei Maneskin, e sono citati spesso anche da diverse band americane e inglesi come fonte di ispirazione. Ricorderete tutti anche il famosissimo tour che portò la PFM in giro con Fabrizio De André e con annessi album live. E poi siamo arrivati dopo tantissimi anni a questo The Event, tantissimi anni inframmezzati da parecchi album live, siamo arrivati a questo The Event che vi propongo quest'oggi come novità. Una piccola parentesi per dire solamente una cosa personale, nel senso che in pratica la PFM, premiata in Forneria Marconi, è stata la prima band che io ho visto veramente dal vivo al Palazzo dello Sport qui a Bologna. Era il 27 maggio del 1971 e loro aprivano opere di Purple, quindi ancora prima di Deep Purple, che è stato il mio primo grande concerto, ci sono stati questi ragazzi che nessuno conosceva, non c'era, nessuno ha detto niente. Quando sono entrati sull'organo c'erano tre lettere e non si capiva bene se la lettera centrale fosse stata una E o una F. E poi si è saputo dopo che si chiamavano Premiata Fonaria Marconi PFM. Dopo tutte queste chiacchiere andiamo ad ascoltarci la versione live 2022 del loro primo singolo, un pezzo bellissimo come del resto tutto il primo album, che si chiama La carrozza di Hans. Aspetta lontano, ora, piccolo uomo, signore del mondo, vai. Si chiama Storia di un minuto, il primo fantastico e imprescindibile album della premiata Fonere Marconi, che conteneva questo, che era il primo singolo della band, La carrozza di Hans. Questa però è la versione 2022, in quel di Lugano. La band, come dicevo prima, è capitanata da Franz Di Cioccio, che negli anni è diventato il cantante della band, anche se diciamo non è eccelso come cantante. Fra parentesi, questo è il primo album live della band senza Franco Musida, il chitarrista storico, grandissimo chitarrista, che ha lasciato la band un paio di anni fa, se ricordo bene, e è stato sostituito da Mattia Mancuso, che secondo me a volte esagera un po' con le note, ne fa un po' troppe, ne fa un po' tante. The Event si chiama questo album, consigliatissimo agli amanti del genere, ma anche agli amanti della buona musica. E i primi anni 70 furono un periodo molto prolifico per la musica italiana, soprattutto quella progressive, appunto. Ci fu un fiorire di band incredibili, con nomi incredibili, ve ne dico qualcuno. C'era quella vecchia locanda, ma anche la locanda delle fate, il Museo Rosenbach, la Maschera di Cera, il Biglietto per l'Inferno, il Balletto di Bronzo e last but not least Picchio dal Posto. Erano tutti nomi incredibili per queste band che facevano lunghe suite, spesso abbastanza logorroiche anche, con un riff o un tema musicale facevano interi album che alla lunga però non rendevano più di tanto. C'è di strano che verso la fine degli anni 70, tarda metà degli anni 70, questo movimento andò a scemare, o almeno per quel che riguarda il grosso pubblico. C'è sempre rimasta una catena sotterranea di band e di club che facevano questo tipo di musica, però non erano più alla ribalta. A pensare a far tornare alla ribalta il progressive italiano ci hanno pensato i giapponesi, è una cosa abbastanza incredibile, e niente, sono tornati in auge, perché in Giappone c'è stato un festival che si chiamava Italian Rock Progressive, che ha riportato molte di queste band che sono sciolte a riformarsi e fra l'altro a incidere album live in Giappone. Ce ne ascolteremo qualcuno fra poco. Ed è una cosa molto particolare che queste bands storiche più o meno abbiano molto più successo all'estero che in Italia. Fra i nomi strani che ho citato prima non c'è quello forse più strano. Si chiamava la band La Raccomandata con ricevuta di ritorno. Naturalmente si sono sciolti diverse volte e sono riformati altrettanto diverse volte, ma questa volta con il nome La Nuova Raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutto sotto la guida di Luciano Regoli, che è la voce e la chitarra acustica di questa band. Loro hanno pubblicato un album registrato all'Isola d'Elba a Portoferraio il 14 dicembre del 2013. Quasi tutte le registrazioni che ci ascolteremo oggi sono più recenti rispetto agli anni 70, in cui era in auge questo genere musicale. Però, come vi dicevo, sulla scia del successo, fra virgolette, naturalmente, giapponese, molte band sono riformate e hanno inciso album live, tipo questo appunto, Live in Elba, della Nuova Raccomandata con ricevuta di ritorno. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Il Fuoco. Davanti a me, rocce bruciavano, in alto sentì ali che fuggivano. Così le seguì, spalle alla luce, verso scure nuvole, quel fuoco bruciò dentro di me, le false favole. Seguivo il sentiero, guidava il buio. Un vento improvviso turbò il mio pensiero, riaccese un fuoco. Grazie. Grazie. Lento respiro di foglie accompagna i miei passi indecisi. Un'illusione di aurora ricamata sul vicino orizzonte. Questa luce non ferisce più. Posso aprire gli occhi, posso guardare. Tra un minuto un fuoco tiepido mi potrà scaldare, riposare. Maledette queste pareti, sbriciolate da un continuo rumore. In fondo una porta, così grande non l'avevo cercata. Mi avvicino con curiosità, sento la corrente nel corridoio. Tra un minuto un fuoco tiepido mi potrà scaldare, riposare. Anche Bologna ha avuto la sua brava progressive band, anche se in tempi più recenti. Infatti siamo a metà, prima metà degli anni 90, siamo nel 1993, il 26 marzo. Questi erano Sitonia, una band che, malgrado le mie ricerche, non vi so dire se è tuttora viva e vegeta, ma se magari qualcuno di voi sa qualcosa sui Sitonia, può tranquillamente mandarmi un WhatsApp. Il numero è 333 1809 494, lo ripeto, 333 1809 494, per notizie sui Sitonia. Il pezzo che ci siamo ascoltati dal loro album live, che si chiama Folla di Passaggio, il brano invece era La Cella. Veloce sui tuoi pensieri, ti cresce all'improvviso dentro la testa e scopri che hai bisogno di questo sole e non ti fa paura la sua allegria che ti sorprende come una malattia. O Sandra Bay, o Sandra Bay, o Sandra Bay, o Sandra Bay. Arriva all'improvviso, arriva come il mare e non sai mai dove. Arriva come come me arriva all'improvviso e non sai mai da dove. Arriva come me, arriva all'improvviso e non sai mai da dove. Arriva all'improvviso, arriva come me e non sai mai da dove. E a proposito di nomi strani, Banco del Mutuo Soccorso per una rock band, direi un nome abbastanza strano. Una delle poche band sopravvissute, insieme alla premiata Forneria Marconi, che è partito, Banco del Mutuo Soccorso, tantissimi anni fa, addirittura nel 1968, nel corso della propria carriera. Ci sono stati diversi cambi di personale, alcuni voluti, altri purtroppo indotti, tipo quella dovuta alla morte del cantante Francesco Di Giacomo, che aveva questa voce spettacolare che abbiamo sentito in questo brano che si chiama Canto di Primavera. Altro pezzo da 90 del progressive italiano, ma con un nome abbastanza normale, era la band delle Orme. Vengono tuttora da Venezia, loro si sono sciolti diverse volte, hanno cambiato formazione, ci sono stati dei problemi fra quella che era la sezione ritmica di Aldo Tagliapietra e Michi De Rossi e il tastierista Aldo Pagliuca. E infatti adesso le Orme sono formate dalla sezione ritmica che vi ho appena detto, Tagliapietra e Michi De Rossi più due tastieristi, e niente, loro continuano la loro attività e sono tuttora attivi, e contrariamente a quanto vi dicevo prima, oltre che essere famosi e avere un certo riscontro in Giappone con il progressive italiano, anche negli Stati Uniti c'è tutta un giro, chiamiamolo così, un circuito, ecco, per meglio dire, di progressive, che spesso e volentieri invita gruppi italiani. C'è in particolare un festival in quel di Bethlehem, nella Pennsylvania, che il festival si chiama Near Fest, dove appunto sono stati invitati nel 2005 i componenti delle Orme. Da lì è stato tratto un doppio CD più DVD che si chiama appunto Live in Pennsylvania, che comprende tutte le più grosse hit di questa band, compreso quella che è, secondo me, sicuramente la più conosciuta, il brano più conosciuto fra tutta l'immensa oramai produzione della band veneziana. È un brano che avete sentito tante volte, è stato in classifica anche in Italia ed è un super super super classico, oserei dire, lo conoscete certamente, Giochi di Bimba. Dove si alza di notte, cammina in silenzio con gli occhi ancor chiusi, come seguisse un magico canto, e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga vestaglia, il volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a spiare. Il vento la spinge, cattura le stelle per i suoi desideri, un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Un grido al mattino in mezzo alla strada, pezza, invoca il suo sarto, con voce smarrita per sempre ripete, io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così. ocean goes between the wings of my dream and my body plays for it till now. Over sand of time ago, and left for us thing by sleeping life still sembles the dark. Fleets of misty birds, oh, they lift my breath so high. Now I'm running with my friends in my mind flies again. My mind flies again. Vengono da Napoli gli Osanna, sono stati molto molto famosi negli anni 70, nel primo periodo della loro carriera. Infatti loro hanno iniziato nel 71, poi nel 79 si sono sciolti, ma nel 1999 uno dei loro membri originali, il cantante e chitarrista Lino Vairetti, ha riformato la band, del quale rimane appunto l'unico membro originale, e tuttora sono attivi. Dicevo, erano molto famosi anche e soprattutto per i loro spettacoli. Loro si presentavano mascherati in costumi e avevano con sé ballerini, mangiafuoco, facevano veramente un grande spettacolo. All'epoca avevano nella formazione un sassofonista che si chiama Elio Danna, che era veramente fantastico, una band assolutamente incredibile. Un album consigliatissimo che si chiama Palepoli e che è veramente molto molto molto interessante. Qui abbiamo invece un album che è stato eseguito nella propria integrità. L'album era la colonna sonora di un film che si chiama Milano Calibro 9. Una parte della colonna sonora fu scritta da Luis Bacalov, una parte da loro, ma tutta eseguita da gli Osanna insieme all'orchestra. In questa occasione, quella che ci siamo ascoltati, siamo andati in Giappone finalmente al Club Città di Kawasaki, che è uno dei grandi grandi città che formano l'immensa Tokyo, ed era il novembre del 2011. Il pezzo si chiama My Mind Flies e, fra parentesi, è l'unico brano cantato di tutto questo album, appunto Milano Calibro 9. Rimaniamo in Giappone e sempre nello stesso locale dove c'è questo festival, c'è tuttora questo festival che si chiama Italian Rock Progressive. Qualche giorno prima invece, il 4 novembre, erano di scena i Trip, una grande band, anche questa che ha avuto tanto successo con due album, concept album, cioè il primo si chiamava Caronte e il secondo invece si chiama Atlantide, o viceversa, onestamente non lo ricordo. E loro erano un trio guidato da un tastierista che si chiamava purtroppo Joe Vescovi. Loro hanno una storia molto particolare, perché nel 1966 Ricky Maiocchi non so chi di voi se lo ricordi, lasciò i Camaleonti, grande band del pop italiano, e andò a Londra per cercare una backing band. In questa backing band, fra parentesi, per un certo periodo, pochi giorni a dire il vero, ha suonato anche Ritchie Blackmore, che lasciò poi la band che accompagnava Ricky Maiocchi per andare a formare i Deep Purple, scusate se poco. E poi la band Rick e Maiocchi si sono divisi, e la band andò avanti prima con il nome di Trip, appunto, come quartetto, poi invece con la classica line-up a trio con Joe Vescovi appunto alle tastiere, Wes Anderson al basso e Furio Chirico, batterista eccezionale. Nel 2011 appunto al Club Kawasaki, al Club Città di Kawasaki, riproposero integralmente il loro album Atlantide, che comincia proprio con il pezzo omonimo. Thank you. title track dell'omonimo album, si chiama Atlantide. Erano i Trip, registrati in quel di Kawasaki, Giappone, Kawasaki, virgola, Tokyo, virgola, Giappone, il 4 novembre del 2011. Concludono questa, ancora una volta forzatamente, piccola rassegna di progressive italiano. Oddio, non è che ci sono tantissime altre cose, ma qualcosa ci sarebbe, tipo gli Arti e Mestieri, che sono direttamente collegati ai Trip, perché il batterista dei Trip, Furio Chirico, li ha fondati e li porta tuttora in giro. Infatti li abbiamo visti qualche anno fa al Festival Prog di Porretta. Ma appunto i Trip con questa Atlantide concludevano la prima parte di Città Fujiko Live Club di oggi. Come sempre siamo tutti qua, sire, siamo noi, il poeta, l'assassino, sua santità. Tutti fedeli amici tuoi. Sapete, non so stare senza di voi. popolo non ride ma lo si sa. Sempre che a Nucola non gli va mai bene niente, chissà perché. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, iniziata come sempre con la novità che vi propongo in questa giornata, nella giornata in cui si trasmette naturalmente. È premiata Foneria Marconi, si chiama The Event, l'album in questione è stato registrato a Lugano al Estival Jazz, rigorosamente senza F, ed è un album notevole che, come dicevo, è stato registrato lo scorso anno il 27 agosto ed è il primo album live senza Franco Mussida alla chitarra. Comunque è sempre un gran bel sentire. Il Banchetto è il pezzo che ci siamo ascoltati da questa band che è stata la protagonista dell'epoca progressive italiana dagli anni 70 in poi. E Ricordi Today è la rubrica che è sempre inserita nella seconda parte di Città Fujiko Live Club, rubrica che vi fa ascoltare i brani nel corso della giornata odierna, nel corso degli anni, appunto 21 giugno, fra l'altro primo giorno di primavera, giornata mondiale della musica. Giusto per rimanere in tema, le prime due registrazioni che ci ascolteremo effettuate il 21 giugno, sono proprio due cose progressive, giusto per rimanere in tema. La prima arriva da una band che si chiama Renaissance, band che è stata formata a Londra nel 1969 da due fuoriusciti dagli Yardbirds. Kate Ralph, il cantante, e Jim McCarty, il batterista, fondarono questi Renaissance con una musica completamente diversa rispetto a quella degli Yardbirds. Sono cambiate tante formazioni, sono stati tanti breaks, cioè tante divisioni e tante riunioni, ma l'unico membro, il membro più longevo, diciamo così, in attività è Hani Aslam, che entrò nella band nel 1972, che è la cantante appunto da quell'anno in poi. L'album che ci andiamo ad ascoltare è il primo album live che hanno fatto, sono due long playing, poi è stato ristampato anche in CD in tempi abbastanza recenti. Sono due album, l'album si chiama Live at Carnegie Hall, perché è stato registrato nell'omonimo teatro di New York insieme ad un'orchestra classica. Fra parentesi, oltre a questo Live at Carnegie Hall, negli ultimi tempi, diciamo nell'ultimo paio d'anni, sono stati ristampati molti degli album di questa band con annessi live, più o meno concerti integrali, non sempre, ma sicuramente molte cose dal vivo. Il brano che ho scelto per voi è un brano che si chiama Carpet of the Sun. Loro si chiamano Renaissance. Era il 21 giugno del 1975 in quel di New York City. We'd like to do a song which is definitely one of my favourites. It's quite a short song, all about the sun. And we'd like to introduce the orchestra to this song. It's called Carpet the Sun. Thank you. In realtà in Renaissance suonarono anche il 20 e il 22 di quel giugno del 1975 alla Carnegie Hall, ma appunto essendo oggi il 21 abbiamo scelto questo brano, ho scelto per meglio dire questo brano, per farvi capire la musica di questa grande band che non tutti conoscono. Il brano si chiamava, come ha detto Annie Haslam stessa, Carpet of the Sun. Rimaniamo in tema progressive con una band che ha dato il via a quello che si chiamava la New Wave of the British Progressive. Si chiamano tuttora Marion, ma bisogna distinguere fra due parti nella carriera di questo gruppo che si è formato a Aylesbury nel 1979. La prima parte, che arriva appunto dal 79 all'88, vede alla voce Fish, cantante carismatico molto, molto ben voluto dai Kids britannici, che abbandonò il gruppo proprio appunto nell'88 per una carriera solista che però non gli ha dato tutto il successo che lui pensava potesse avere. Da quell'anno il cantante è diventato Steve Hogarth, che è tuttora il cantante della band, che è tuttora in giro e fa il pieno dappertutto, anzi ha uno zoccolo duro, come si suol dire, di fans veramente incredibile. E fra parentesi, loro hanno un sacco di album live registrati, si possono trovare sul loro sito, non dico tutti i concerti che hanno fatto, ma ce ne sono veramente tantissimi e molti di questi sono molto molto validi. Quello che ci andiamo ad ascoltare è ancora il periodo con Fish, siamo appunto nel 1986 e siamo con un album doppio che si chiama The Thieving Magpie, fra parentesi La Gazza Ladra. Infatti la traduzione di The Thieving Magpie è proprio La Gazza Ladra, che è il nome originale, per cui bisogna mantenere l'originale, del famoso brano di Gioachino Rossini, e che è l'introduzione del concerto, fra parentesi. E questo The Thieving Magpie è stato registrato in diverse serate, in diverse epoche, ma quella che interessa a noi è un brano che si chiama Freaks ed è stato registrato dai Merillion al Meiman Market Gelande, una cosa incredibile da dire, in Germania, Mannheim in Germania, ed è uno dei loro grandi successi, appunto Freaks, come ci dice in apertura lo stesso Fish. all the best freaks are here. Said all the best freaks are here, all the best freaks are here. Please stop saying, sing with me. So I said all the best freaks are here, all the best freaks are here. Please stop staring at me. Let's go. Did you ever wake up sweating in the middle of the night? I searched the darkness and you're scrambling for the light. Did you ever walk down the street, hear footsteps following you? But don't worry, my son, you've got the spook squad looking after you. I said all the best freaks are here, all the best freaks are here. Please stop staring at me. Marion con Fish alla voce, il 21 giugno del 1986 in quel di Mannheim in Germania. Il brano, come ripetuto più volte lo stesso Fish, si chiama Freaks. Dopo questa scorpacciata di progressive, sia italiano che straniero, torniamo, per meglio dire, al rock più viscerale, più pesante, anche spesso volentieri. Abbiamo in scena un chitarrista che si chiama Ian Moore. Lui viene da Berkeley, anzi è nato a Berkeley, ma ormai da diversi anni abita ad Austin, Texas, dove la sera del 21-22 giugno 1994 allo Steamboat ha registrato questo mini album che si chiama Live from Austin. È un album molto viscerale, con Ian Moore, che è un chitarrista di quelli che alzano il volume parecchio e che a volte suonano anche troppe note. Ma ce l'andiamo ad ascoltare adesso. Il pezzo che apre l'album si chiama Pay No Mind, lui invece si chiama Ian Moore. 21 giugno 1994. We'll be right back. piccolo problemino con il lettore, non parte in pratica, vediamo quello che posso fare per farvi ascoltare il brano che mi interessava farvi ascoltare. C'è qualche problema, quindi la tiro per le lunghe. Il brano che volevo farvi ascoltare, e spero di poi di farvi ascoltare, è un brano di Joe D'Urso, che è un personaggio che arriva dal New Jersey e che ha fatto un sacco di album e spesso anche qua in Italia. È uno springstiniano, appartiene a quel folto gruppo di musicisti che fanno capo come fonte di ispirazione a Bruce Springsteen. Vediamo se riesco a farlo andare. No, direi proprio che non c'è assolutamente pezza. Niente, mi dispiace molto, perché era una registrazione effettuata il 21 giugno del 2008 da parte di Joe D'Urso e Stone Caravan, che è la sua band. Dicevo di questo personaggio che è... funziona così. No, non mi sembra proprio il caso, da me funzionava benissimo, ma comunque questo è un altro discorso. E lui è uno springstiniano e fa un concerto anche diverse cover. Quello che volevo proporvi è il suo secondo album, il suo album live, un doppio che si chiama One More Song. E niente, mi dispiace molto non potervelo fare ascoltare. Quindi passiamo direttamente al 2016 con una band che si chiama Nada Surf, una band che si è formata a New York nel 1992, ma che per qualche tempo è venuta in Europa a girare per l'Europa facendo i Buskers, i due membri fondatori. E fra l'altro sono molto popolari in Francia, anche perché loro, appunto, essendo stati in Europa, parlano francese fluente e niente, sono un'ottima band secondo me. In questo caso li vediamo accompagnati da un'orchestra tedesca di cui adesso proverò a dire il nome, Deutsche Filmorchester Babelsberg, che insieme a Another Surf ha registrato questo album in quel di Babelsberg, Potsdam, in Germania, appunto. E l'album si chiama Peaceful Ghosts ed è stato appunto registrato il 21 giugno del 2016. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Animal, Another Surf. Well, I used to get high and dance all around the house, cleaning, rearranging while I'd let it all out. Those happy times, I say to myself, this is it, don't stop, all will be well if you only never stop the clock. You gotta learn to cut losses and recognize new truths, or you'll never get anywhere that is of any use. Sometimes you can't see the sea even from above, so whatever hints you get, you better hurry and take none. I'm here because I knew that this time I'd be haunted, I'm here Erano in Ada Surf a concludere una menomata Ricordi Today di oggi con questa registrazione del 2016 a Potsdam in Germania del 21 giugno 2016. Il brano si chiama Animal ed è praticamente la conclusione del set originale, del primo set. Dopo c'è un altro brano che è il bis o l'encore, chiamatelo come volete. Il tutto tratto da un album che si chiama Peaceful Ghost. La defezione forzata di Gio D'Urso mi porta alla conclusione della trasmissione insieme alla novità che vi propongo quest'oggi. Si chiama The Event, nuovo album live per quel che riguarda la PFM, album che è stato registrato in quel di Lugano e che durante la partecipazione della PFM a un festival che si chiama Estival Jazz. Fra l'altro non è l'unica partecipazione della PFM, anche negli anni passati ce ne sono state altre 3 o 4 nel corso appunto di tutta la lunghissima carriera della premiata Foneria Marconi. Tutto naturalmente ci porta alla conclusione di questo Città Fujiko Live Club che mercoledì prossimo non andrà in onda. Come dicevo, prenderò un po' di ferie, ci sentiamo fra 15 giorni sempre sui 103,1 o .1 come volete voi, megahertz di modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko, ma soprattutto per meglio dire c'è anche il web con l'apposita app che potete scaricare dal sito radiocittafujiko.it. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia della premiata Foneria Marconi. Ciao a tutti da Nevio. quello che fa.